WABAI, ha due trasmissioni, Off the Hook e Off the Wall, mi pare che si chiami l'altra, no? In una si occupa soprattutto di questioni che riguardano l'informatica, nell'altra invece si occupa più in generale di racconto proprio radiofonico, tra l'altro in questo momento con Kyle, che è il nostro altro ospite, viene anche lui da New York, un collaboratore di Manuel, sì, stanno trasmettendo, cioè nello stesso momento in cui loro sono qui con noi stanno trasmettendo anche o comunque stanno registrando negli Stati Uniti. Con noi c'è Marina Catucci, che è una giornalista del Manifesto, collaboratrice di Radio Popolare, che ne sa moltissimo di questioni relative appunto agli hackers eccetera, quindi è qui e farà delle domande a Emmanuel. E poi ringrazio Ira Rubini che tradurrà Emmanuel e Kyle. Allora, io poi farò qualche domanda, intanto do subito la parola a Marina. E Marina, prego, direi innanzitutto di presentare, no, Emmanuel, come l'hai conosciuto e insomma chi è Emmanuel Goldstein. Ok, allora io cercherò di essere breve, ma riassumere Emmanuel Goldstein è un'impresa titanica. Cioè Emmanuel fa radiofonia appunto dall'84 con una trasmissione che si chiama, Emmanuel pubblica una rivista dall'84, una rivista che si chiama 2600 e che è la rivista culto dell'ambiente dell'hacker e della controcultura americana. Dall'88 invece mantiene una trasmissione radiofonica che si chiama Off the Hook su WBI e un'altra trasmissione, come citava Roberto, che è Off the Wall, che è stato in grado di mantenere ogni martedì e ogni mercoledì rispettivamente per tutti questi anni in ogni tipo di occasione, anche quando una volta ha fatto il giro del mondo via terra non prendendo mai un aeroplano, ogni martedì e ogni mercoledì è riuscito ad andare in onda. Emmanuel organizza quello che in Italia chiamano hack meeting, che in America chiamano più che altro serie di conferenze su tematica hacker dal 94 e si chiama Hope Hacker on Planet Earth, che si svolge nel cuore di New York. Io seguo Emmanuel, cioè quello che fa, quello che dice, quello che scrive da molti anni. In tutti questi anni io non l'ho mai visto nervoso una volta. Non l'ho visto nervoso quando è stato denunciato dalla Sony ad persona per infrangimento di copyright. Non l'ho visto nervoso quando la CIA e FBI sono arrivati alla conferenza, perché c'era fra gli invitati annunciato Julian Assange e presente Jacob Applebaum, e gli hanno chiesto di interrogare Applebaum. Emmanuel non ha perso la calma e ha detto: avete un mandato? No, allora dovete fare il biglietto. Li ha messi in fila, la fila è diventata magicamente lunghissima e non li hanno interrogati mai. Io non ho mai, appunto, come dicevo, visto nervoso Emmanuel neanche quando lo hanno arrestato durante una manifestazione nel 2004 durante la convention repubblicana, e la polizia gli ha detto: no, tu non ti riconosciamo come giornalista, tu sei Emmanuel Goldstein, sei il nemico, e quindi l'hanno arrestato mentre gli altri giornalisti sono riusciti ad andare via. Emmanuel è riuscito a nascondere un telefonino con sé e a fare una diretta su WBI da dentro il carcere fino a che non sono scadute le batterie, visto che non era un giornalista. E appunto Emmanuel non è mai stato nervoso. Io l'unica volta che ho visto nervoso, ho sentito nervoso Emmanuel, è stato una notte di inizio novembre nel 2016, quando hanno eletto Donald Trump. E questa non spaventato, perché lui dice: non ho paura di quel tipo, però nervoso sì. E questa è la prima domanda che voglio fare ad Emanuele: che cosa ti rendeva nervoso quella notte e sei ancora nervoso per questo? Am I still nervous? Yeah, I think the whole world is nervous. But you know, that night in November and the following days, I think we all were in a state of shock. I know in New York City we certainly were. And we just kind of bonded together and realized that this is probably one of the worst things ever to happen, but it's going to make us stronger. It's going to make us come together, unite, and work towards a common goal. And that's something we haven't been very good at. And that's why we are in the state we're in right now. So while I thought it was a horrible thing at first, today I have to say I think it's probably one of the best things that could have happened to us, because it taught us the power of individuals, it taught us the power of uniting, and we are going to feel a victory. I think we're feeling it already, because I think what's happening in the United States is that the true power of who is ruling the country is being felt now, and that power is not in the White House. That power is in the streets. Things are not being accomplished. There are scandals. You know, 5 months into the administration, there are more scandals than after 8 years of the previous administration. They're not doing very well at all. It's pretty much as bad as anybody could have predicted. And I only hope that we're able to remain united and work towards a common goal and never, ever let this kind of thing happen again. Allora, dice, credo che sia stata una serata, una notte in cui tutto il mondo è diventato nervoso, o buona parte del mondo è diventato nervoso quella notte di novembre, che in realtà ci ha messo tutti quanti, almeno tutte le persone con cui ero io in quel momento, in uno stato di assoluto shock. Almeno a New York eravamo tutti quanti scioccati. Poi ci siamo in qualche modo riuniti e ci siamo domandati quale fosse il motivo per cui era successa una cosa del genere. Quindi in qualche maniera questo fatto così grave, così terribile, ci ha reso più forti, ci ha fatto capire che dovevamo, insomma, rafforzarci, restare uniti e cercare di puntare a un obiettivo, cosa che fino a quel momento non eravamo stati tanto bravi a fare, evidentemente, visto quello che era successo. Per cui, anche se allora evidentemente si è trattata di una nottata terribile che ancora ricordiamo, oggi direi che forse è la cosa migliore che poteva succederci, nel senso che rivelato qual è il potere dell'unità, il potere dell'individualità al tempo stesso, e anche ci ha fatto sentire la possibilità, e credo che ormai questa sensazione sia diffusa non soltanto negli Stati Uniti, sentire la vittoria che avremmo potuto successivamente raggiungere, perché ormai si è capito che il vero centro del potere negli Stati Uniti non è in chi governa il paese, ma è nelle strade, è nell'intenzione delle persone, perché fino ad adesso, in tutti questi mesi di questa nuova presidenza, non si sono visti risultati, ci sono stati più scandali che in 8 anni della precedente amministrazione. Diciamo che quello che è successo è stato molto peggio di quello che si poteva prevedere, quindi questa per noi è una lezione per capire che dobbiamo assolutamente mantenere l'unità e cercare di essere molto focalizzati sui nostri obiettivi. Ecco, allora, ho un'altra domanda da fare, sempre relativa a Trump, così in qualche modo esauriamo almeno in parte l'argomento della cronaca e poi invece ci allarghiamo a questioni più anche da un certo punto di vista forse più importanti, da un punto di vista proprio, come dire, di prospettiva storica. James Comey, l'ex direttore dell'FBI, alcuni giorni fa, giovedì, ha testimoniato davanti alla Commissione Intelligence del Senato americano, non ha esplicitamente detto che Donald Trump gli avrebbe chiesto di lasciar cadere le accuse nei confronti di Mike Flynn, cioè l'ex consulente della sicurezza nazionale. Comunque Comey ha detto delle cose che, insomma, molto dure nei confronti di Donald Trump, che Trump gli avrebbe detto di sperare che le accuse nei confronti di Flynn venissero lasciate cadere. Allora, una domanda che ho per Emmanuel: come giudica questa audizione davanti al Senato? Può essere davvero pericolosa per il futuro della presidenza di Donald Trump? Oh yes, it's very dangerous for Trump. What Comey did on Thursday. Did you all watch the hearing? You guys watched Comey? Many of them. Wow. Avete visto tutti il confronto di Comey, o almeno degli estratti, il confronto di Comey davanti al Senato? Of course. Qualcuno dice of course. Quanti? Scusate, possiamo alzare la mano così lui ha un'idea di quanti hanno visto la notizia, hanno seguito? So, many of them. Very good. I've been very impressed. It's something that I think everybody in the States was paying attention to as well. And the overall impression is that Comey was honest and spoke the truth about what happened with those meetings. And, you know, based on the tweets and the responses from the Trump administration, it just seemed like they're trying to cover up. And what was actually said was really, getting somebody alone in a room, telling everybody else to leave. You're the president of the United States, and saying, "Boy, I really hope you do this." Seems like, yeah, maybe you're ordering somebody to do that. Everybody gets that. Everybody knows that's exactly what was going on. And while the Trump apologists can say, "Yeah, he didn't actually order you to do that," yeah, he did. That was pretty much intimidating somebody into doing that. Fortunately, Comey was not intimidated. He wrote it down and he told the truth. And he's only the first. Well, actually, he's not the first. He's one of many. There will be many people more that will tell the truth, and many people before him that have already told the truth. And the truth will set us free, but I think it's going to lock Trump up at some point. Okay. Allora, sì, credo che sia stata molto pericolosa per rispondere alla domanda, perché ovviamente, così come voi avete prestato attenzione a questo confronto, a questa audition, a questo, questo confronto di Comey al Senato, così anche negli Stati Uniti ovviamente in tantissimi lo hanno seguito. Io penso che Comey sia stato sincero, che lui abbia raccontato quello che è accaduto veramente negli incontri con il Presidente e poi naturalmente anche l'iter, diciamo, il percorso di tutti i tweet e le risposte dell'amministrazione Trump in merito. Certo, capire come sono andate le cose e coprire le cose sembra che sia l'interesse principale dell'amministrazione Trump. Provate a immaginarvi, una persona viene chiamata in una stanza dove c'è il Presidente degli Stati Uniti, poi il Presidente manda via tutti gli altri, restano soli e a un certo punto dice: "Ragazzo mio, spero proprio che tu farai eccetera eccetera eccetera." Secondo voi è un ordine? Ecco, la maggioranza delle persone lo prenderebbero come tale, ovviamente. Quindi è chiaro che poi Trump e i suoi dicano: "Non ha esattamente ordinato a Comey di fare una certa cosa", ma è chiaro che si trattava di un atteggiamento intimidatorio, almeno così lo sembra. Fortunatamente Comey non si è fatto intimidire, ha detto la verità. E lui diceva, è il primo, poi si è corretto: "No, ci sono già state altre persone che hanno detto la verità a proposito di alcune cose sull'amministrazione Trump e ce ne saranno molti altri anche in futuro, e quindi il nostro futuro è proprio la verità." Io ho proprio una domanda che si aggancia a questa, no? A questo. Abbiamo sentito Emmanuel parlare di Comey, ed è una cosa che è già una notizia in sé, il fatto che praticamente uno degli hacker più famosi del mondo in questo momento si sente più vicino all'ex capo dell'FBI che non a un altro personaggio che fino a poco tempo fa era un nostro amico, cioè Julian Assange. Quindi la mia domanda in questo momento è su questo: what's happened with Julian Assange? Cosa è successo con Assange? Oh, that's an interesting question. Yeah, you know what? I guess revenge is kind of, it kind of blinds you. Julian Assange had a real issue with Hillary Clinton. When she was Secretary of State, she said some unfortunate things about Julian Assange, and I think he didn't forget that, and he made it his mission to do whatever he could to make her look bad. And that wasn't too hard, because of the things that she says and does. But unfortunately, the same attention was not given to Donald Trump. And I think very likely that could have swayed many people. And we wound up with Trump as a result of the leaks that affected only Hillary. And there weren't any real leaks that affected Donald Trump. And certainly there could have been many leaks. There could have been videos. There could have been tax returns. Could have been all kinds of things, and we didn't see that. And I think in Julian's case, he was blinded pretty much by wanting to get back at Hillary for the things that she said. Unfortunately, I think that hurts him as it hurts everybody else, because Donald Trump has already said that he intends to open a case against Julian Assange, and I don't think he can just walk out of the embassy now. I think under Hillary Clinton he might have been able to, because I don't think she would have dared to come after Julian Assange and look bad in front of everybody, whereas Donald Trump doesn't really care, and he will waste no effort in locking him up and anybody else who he sees as a potential threat. So I understand why he did what he did, why Julian did what he did, but I think it was a mistake. Mm-hmm. E questa è una domanda molto interessante, perché io credo che la vendetta accechi le persone e che questo sia successo anche nel caso di Julian Assange, che ce l'ha a morte e ce l'aveva a morte con Hillary Clinton per le cose inopportune, diciamo, che ha detto su di lui. Di conseguenza ha deciso di fare, di trasformare in una missione il compito di abbatterla, di danneggiarla nella sua corsa alla Casa Bianca, e quindi di fare di tutto perché appunto uscissero le notizie che poi sono uscite. L'unico problema è che non lo ha fatto, cioè lo stesso comportamento non è stato riservato all'altro candidato, cioè a Donald Trump. Quindi il risultato è che Trump ha vinto le elezioni presidenziali, Hillary le ha perse a causa di quei leaks, cioè lo sapete, avete seguito la questione, che però non hanno riguardato il presidente attualmente in carica. Ce ne sarebbero stati moltissimi anche a suo carico, evidentemente, sia video che per esempio tutte le sue dichiarazioni dei redditi molto semplicemente sarebbero state sufficienti per impallinarlo. Ecco, lui ha ritenuto di non farlo, appunto perché accecato dal desiderio di vendetta nei confronti di Hillary per quello che gli aveva fatto, e io penso che questo suo comportamento e questo suo atto, che ha avuto come dire la sua efficacia in un certo senso, sia stato alla fine molto peggio per lui e naturalmente peggio per noi, perché adesso abbiamo Trump che non si farà nessun problema di aprire un caso e di fare in modo che Julian Assange venga mandato fuori, buttato fuori dall'ambasciata dove adesso trova rifugio, quella dell'Ecuador, e quindi Hillary invece non avrebbe mai osato farlo se fosse diventata presidente, perché la figura che avrebbe fatto dopo gli scontri già precedenti con Assange sarebbe stata troppo grande. Quindi molto probabilmente Assange ha decretato la sua stessa fine, facendo in modo che Donald Trump venisse eletto e danneggiando con il suo comportamento Hillary. Quindi io capisco perché l'ha fatto, ma penso che abbia fatto un errore. Ecco, allora adesso secondo me è anche interessante allargare un po' la prospettiva. Manuel, ma anche Kyle, poi sono due giornalisti, fanno un lavoro che ha a che fare con la libertà di informazione, con le libertà civili. Allora, adesso noi siamo ovviamente tutti molto concentrati su Trump, che è un fenomeno abbastanza straordinario, però, come dire, forse bisogna anche, dovrebbe guardare le cose in prospettiva. Allora, voglio chiedere ad Emmanuel, ma anche a Kyle, una questione, cioè che giudizio danno del record, di quello che Barack Obama ha fatto in tema di libertà civili. Obama ha cercato di chiudere Guantanamo, lo ricordo, e questa non è una responsabilità sua, perché il Congresso, i repubblicani, ma non soltanto i repubblicani, anche i democratici gliel'hanno impedito, però Obama ha una serie di ombre su altre questioni, per esempio la kill list, la lista delle uccisioni extrajudicial, cioè al di fuori di un controllo giudiziario. C'è la questione dell'uso dei droni. C'è la questione, per esempio, del fatto che Barack Obama ha da solo, come presidente, durante la sua presidenza, perseguito più whistleblowers, cioè più leakers, più persone che hanno fatto uscire delle notizie rispetto a tutte le presidenze precedenti. Allora, volevo chiedere a Emmanuel, ma anche a Kyle, che appunto fa un lavoro di questo tipo, tra l'altro lui, lo ricordo, è un fotografo, è un artista, quindi si occupa anche proprio di libertà d'espressione, che giudizio danno di Barack Obama in tema di libertà civili? Stessa domanda anche a Kyle, scusami, perché okay. Non riesco a tradurla tutti e due. Okay. Me first? Yeah. Okay. You go. Basically, I think Barack Obama got a very raw deal from the American people because he was judged from two different sides. He was judged from the right-wing conservative and from the left-wing liberal. And it was kind of a problem because people on the left weren't happy with the rate of progress, and they blamed Obama for it going too slowly. In other words, you look at something like healthcare, and Barack Obama was able to bring healthcare finally to the American people as an issue, and we have healthcare as a result of that. But too many people on the left would say, it's not good enough, therefore I don't support it. And then people on the right said, it's too much, we don't support it. And they added those two numbers together so that more people didn't support it than did, even though more people would want to keep going in that direction. This happened many times where people on the left wanted everything at once instead of realizing that Barack Obama was a step towards something better. And they didn't support him when he needed that support. For instance, closing Guantanamo Bay. He was accused of lying for not closing Guantanamo Bay, but in fact, he tried to close Guantanamo Bay, and Congress kept blocking this from happening. There are numerous examples of things like that where he just couldn't win. But now, I think now he might be appreciated a lot more than when he was in office, when we see how things can be dismantled so quickly and we can move backwards. We see normalization of relations with Cuba being threatened. We see healthcare being dismantled. We see the banks being given all this power back after it was taken away from them. We see social programs being taken away and entire departments being dismantled. And all of a sudden, Barack Obama doesn't look so bad. And I think if we had it to do over again, we'd make different decisions and we'd judge in a little bit more of a fair light. But this is a problem that I've seen before, and that people need to realize that we can't always get everything we want right away. We have to recognize what the better choice is of two choices. You can't say, it's all bad, therefore I won't participate. Because when you do that, you wind up with fascists. And that's where we are right now. Beh, insomma, Obama non è che abbia avuto molta vita facile nel giudizio da parte di entrambe le parti dell'elettorato americano, perché diciamo che ha avuto problemi con sia l'elettorato di sinistra che con quello di destra, per motivi diversi evidentemente, perché la sinistra riteneva che il suo processo di modernizzazione e di insomma anche tutte le promesse che aveva fatto nel corso della campagna elettorale venissero messe in pratica in modo troppo lento. L'esempio è quello della sanità. Obama è riuscito finalmente a far diventare la questione della sanità, a portare la questione della sanità all'attenzione dell'opinione pubblica americana, a farne un tema di discussione, ma la buona parte della sinistra americana gli ha rimproverato di non aver ottenuto abbastanza in fretta i risultati che secondo loro aveva promesso. Invece la destra lo ha criticato, lo sapete bene, per il motivo esattamente opposto. Era molto troppo per la destra americana ciò che Obama era riuscito ad ottenere. Questo è accaduto molte volte nel corso della sua presidenza. La sinistra voleva tutto e subito, la destra non voleva niente, o peggio ancora, voleva che venisse smontato quello che già era stato fatto. Un classico esempio, e questo tra l'altro ha determinato una mancanza di supporto da parte della destra, forse più prevedibile, ma anche da parte della sinistra, e quindi questi numeri dell'una e dell'altra parte messi insieme hanno fatto sì che l'amministrazione Obama e Obama stesso non abbia avuto sostegno nei momenti in cui ne aveva bisogno. Il caso di Guantanamo, che è stato citato, è molto esemplificativo. È stato accusato di aver mentito perché aveva promesso di chiuderlo e non lo ha fatto. In realtà lui ha veramente provato a farlo. Il guaio è che appunto non ci sono state le condizioni per farlo. Posso pensare a tanti altri esempi simili, però adesso quanto lo rimpiangiamo, cioè quanto ci sembra migliore il modo in cui lui gestiva le cose. Adesso che come dire, la semplificazione e il miglioramento dei rapporti con Cuba sembrano, la distensione diciamo con Cuba sembrano minacciate, tutto il sistema della sanità che era stato avviato è stato rimesso completamente in discussione, le banche hanno riottenuto in breve tempo e stanno riottenendo in breve tempo tutto il potere che Obama aveva cercato di togliergli, insomma tutta una serie di programmi per esempio sociali vengono completamente smantellati, addirittura interi dipartimenti che si occupavano di politiche sociali vengono completamente smantellati e coloro che ci lavorano mandati a casa, ecco, quindi forse adesso, soprattutto a sinistra, ci si rende conto che Obama forse non era così male e forse che avremmo dovuto prendere delle altre decisioni. Purtroppo, dice lui, io questo l'ho già visto succedere in passato, non bisogna cercare di avere tutto e subito, ma forse bisogna cercare di scegliere l'opzione migliore, altrimenti il risultato è quello che abbiamo adesso, che si finisce in mano ai fascisti. No, I think Barack Obama's election in history will be a lot more positive than it was during his presidency because of the positive things that resulted, the things that did actually get done during his presidency. We're told in school when you're very young, democracy as it is in the United States, as it was designed, is to be very slow, deliberately slow. For these changes, that's why they're important. It might seem boring to young people, but it's very important to be engaged and to understand that each step along the way leads to change and better benefits for society. So for me, the election of Barack Obama was very important as an eligible voter. It was the first election for me that a presidential candidate I voted for won. I had voted in 2004 and 2004, my candidate didn't win, and obviously we had George W. Bush. And 2008, my vote actually counted. And as a young American, that's an important thing. So I think what I call it, as Emmanuel said, the political purists on all sides want perfection, and especially during an administration with the media environment, the critique is very harsh. And it's not necessarily unwarranted. There are definite missteps and mistakes that the Democrats made and that even former President Obama made himself. Absolutely, there are a lot of consequences, but the critique during a presidency within parties, those critiques of the purists aren't as important because the president represents all people. And just as it wasn't always favorable for Barack Obama, I don't think that, and it definitely... I don't think that Donald Trump is getting an easy time, and he shouldn't. We shouldn't expect that. But he is unprofessional, and his administration is unprepared, and they have so much scandal that they can't. They've underestimated the intelligence of all the people. They may have exploited a democratic system that was not as intelligent, but the voters are. So they think they have won, but it, as Emmanuel said, is only the beginning, I think, for the direction of our democracy. And people, as you said, are really emboldened and more powerful than ever because it is so unprofessional. Ok, allora, dice, credo che la presidenza di Barack Obama sarà per la storia, con la S maiuscola, una presidenza molto più positiva di quella che è sembrata nel corso del suo svolgimento, e quindi penso proprio che insomma, col passare degli anni, quello che già stava dicendo Emmanuel verrà confermato. Tuttavia per esempio nel mio caso, per una democrazia come quella statunitense, ricordo che a scuola ci veniva insegnato che per essere una democrazia così come era stata disegnata e progettata la democrazia statunitense doveva essere lenta, cioè i progressi e i passi avanti dovevano essere fatti con calma, in modo che venissero fatti in modo ponderato, e questo poteva apparire molto e può ancora apparire molto noioso per i giovani, ma io ho capito il senso di quell'insegnamento che ci davano a scuola, cioè ogni passo va fatto con le dovute valutazioni. Quindi questo tipo di criterio può essere applicato alla presidenza Obama. In più aggiungo che, come giovane elettore, quella è stata la prima elezione in cui un candidato per cui io ho effettivamente votato ha vinto. Nel 2004, per esempio, il mio candidato non ha vinto e abbiamo visto il risultato, abbiamo avuto George W. Bush, ma nel 2008 il voto per Obama, che appunto ha dato un risultato positivo, mi ha dato la sensazione che finalmente per una volta il mio voto contasse, è stato molto importante. Immanuel ha dato un buon ritratto dei cosiddetti puristi politici, quelli che vogliono la perfezione sia a destra che a sinistra subito, ma credo che sia assolutamente impossibile in una società come la nostra, che è molto dominata dal potere dei media e da critiche molto dure, che questo possa avvenire con qualunque tipo di presidente, con qualunque tipo di governo. Non è che le critiche non siano necessarie o non siano gradite, sono dovute naturalmente, sono importanti. Per esempio possiamo pensare a tanti passi falsi o sbagli che sono stati fatti sia dal Partito Democratico che da Obama stesso. Sono le conseguenze inevitabilmente di questi passi falsi, ma anche le conseguenze delle critiche che a volte sono difficili da prevedere, possono essere anche peggiori degli sbagli fatti. Quindi in qualche modo credo che le critiche dei puristi, pian piano l'opinione pubblica dovrebbe imparare a non valutarle così importanti, a non ritenerle poi così importanti, perché il presidente alla fine rappresenta tutti. Sinceramente, anche se questa è una frase insomma, che magari ci farà pensare un po', non credo, dice Kyle, che Trump stia passando un bel periodo. Cioè, penso che Trump in realtà sia sottoposto a quello a cui sono sottoposti quasi tutti i presidenti americani da quando appunto esiste questa capacità mediatica di critica costante. Qual è il problema di Trump? Il problema di Trump è che è assolutamente non professionale e incompetente come tutto il suo staff. E la quantità di scandali che è riuscito ad accumulare in così pochi mesi di presidenza fanno capire che lui e il suo staff hanno assolutamente sottovalutato l'intelligenza della popolazione. Hanno forse sfruttato il sistema democratico elettorale, ma non hanno sfruttato l'intelligenza delle persone, l'hanno sottovalutata e hanno creduto di averla messa sotto il tappeto, credendo di avere la vittoria in pugno e di essersi assicurati il potere assoluto. Invece credo che, come dice Immanuel, questo sia proprio l'inizio di una riappropriazione della democrazia da parte delle persone. Le persone hanno preso coraggio e penso proprio, insomma, che in futuro cercheranno di badare meglio alla democrazia. Io adesso avrei un'altra domanda per Manuel, una domanda proprio sul ruolo degli hacker. Gli hacker si è sempre parlato in maniera nebulosa, non si sa bene cosa facciano, cosa pensino, chi siano. E in questo momento storico invece vorrei chiedergli, mentre si sta parlando tipo dei cattivi hacker russi che stanno sovvertendo il sistema geopolitico mondiale e poi invece dell'hacker buono che debella l'Europa dal virus che sta mettendo in ginocchio tutti i computer, in realtà qual è il valore e anche il compito degli hacker in questo preciso momento storico? It's interesting because I've been involved in this for decades, and from the beginning people have said computer hacking is dead, it's over, the glory days are behind us, and every year, no matter what happens in the world, hackers are in the middle of it, and this was no exception. And the thing is, I'm not surprised. I don't think anybody in the hacking community is surprised that inept security resulted in catastrophe. It's not the first time this has happened. It won't be the last. The thing I want to point out that I think people should remember is that we shouldn't be angry at Russia. We shouldn't be angry at Russian hackers. They are playing the game by the rules that the United States has played the game for a long, long time. Interfering with elections is as American as apple pie. We've been doing it forever. And of course the Russians are going to do this. What we should be angry about is how stupid we were, that we're simply going to believe everything we're told, that we're going to log on to Facebook and see a news story and say, wow, that happened. That's true. We're not going to question. We're not going to hold people up to accountability. And we're going to assume that our systems are secure and can't be tampered with. Of course they can. Of course they will be. We have to assume that will be the case. Hackers are not the problem. Hackers are the ones pointing out the problem. And hackers come in a wide variety of political backgrounds. You can't say all hackers are liberal. You can't say all hackers are conservative. You can't say all hackers are pro-America or pro-Russia. Hackers are into hacking. They will hack machines. They will find security holes. And what I like to think in the hacker community is true is that hackers will spread that information. And if they find something, they will tell people, look how easy this is. The problem is most times when they do that, they get blamed as if they're the ones that made the problem in the first place. So there's a lot of suspicion and fear of what hackers can do. And anytime something happens to your computer, it's because of a hacker. A hacker did this. In actuality, hackers are the ones we should be listening to because they're the ones that figure it out. And they're the ones naive enough to tell you and not to keep it to themselves or sell it. If you hear of people selling security holes, they're not hackers. They're opportunists that are using what hackers figure out for their own benefit. This is something that we've been dealing with for over 30 years, reporting what hackers do and what they reveal and trying to make a better world because of that. And I think if we had listened, if we had paid attention to the bad security that was being implemented throughout our campaign, we might have been able to figure this out before it was too late. But now, hopefully, we'll listen and prevent it from happening in the future. And maybe other countries will heed these warnings as well. Mm-hmm. Okay. Oh, sorry. Scusate, mi ero persa il microfono. Allora, dice, beh, io mi occupo, come sapete, come Marina ha già detto, da decenni di questo. Questo è di fatto la mia attività da sempre e sono molti, molti anni che si dice che il computer hacking è morto. E poi puntualmente ogni anno, quando c'è un qualunque caso di questo tipo, dietro si dice che ci sono gli hacker, si tirano in ballo gli hacker, gli si incolpa. È successo ovviamente anche in questo momento storico. Non è una sorpresa, evidentemente, non sono... stupefatto, anche perché tutti i sistemi per cercare di mettere in sicurezza tutto l'universo informatico si sono sempre rivelati delle assolute catastrofi. Quindi non dobbiamo arrabbiarci coi russi. Giocano un gioco che è lo stesso gioco che gli Stati Uniti hanno giocato per tantissimi anni, e la frase che ha fatto ridere quelli che l'hanno già capita è che interferire con le elezioni mondiali è una cosa tanto americana quanto la torta di mele. Quindi questa forse è una constatazione che dobbiamo fare. Semplicemente noi persone comuni siamo troppo stupidi da credere a tutto quello che ci viene raccontato e che spesso le amministrazioni ci raccontano, oppure invece più banalmente a credere a tutto quello che vediamo su Facebook. Cioè c'è su Facebook, allora è successo, allora è vero, oppure ci dicono che una persona è affidabile, non ci portano prove particolari eppure noi ci crediamo. Insomma è proprio anche nel nostro interesse cercare di distinguere fra le varie informazioni, quindi è il sistema che in qualche modo ci tradisce, non sono gli hacker, cioè non sono loro che sono il problema, loro sono quelli che indicano il problema. E mi viene in mente il video del terzo segreto di Satira, il Dalemiano, cioè che indica il problema ma non è, insomma gli hacker sono coloro che indicano quello che non va e che poi lo raccontano, lo confidano. Non sono né conservatori né liberal, non sono contro né pro gli Stati Uniti, sono semplicemente dentro le cose e quindi hanno la capacità di diffondere una notizia, di raccontarla alla persona, mentre molto spesso, quasi sempre, una volta che diffondono una notizia vengono considerati il problema, cioè quelli che hanno creato il problema. Se qualcosa non funziona in un computer, la colpa è sempre di un hacker. Gli hacker veri sono talmente ingenui e soprattutto talmente onesti che generalmente dicono e non vendono le loro informazioni. Quelli che vendono le informazioni spesso le ottengono dagli hacker e sono degli opportunisti che se ne servono per ottenere potere o alcuni benefici. E questo va avanti così da moltissimi anni, insomma, cioè per cui se noi magari negli ultimi tempi avessimo ascoltato un pochino di più quello che gli hacker hanno rivelato, avremmo anche evitato una serie di conseguenze peggiori. Però forse, speriamo, adesso in poi si ascolteranno diverse fonti di informazione, comprese le loro, e forse riusciremo a distinguere meglio quali sono le informazioni più veritiere. Ecco, allora adesso abbiamo ancora 12 minuti, io faccio una domanda, poi se c'è qualcuno tra il pubblico che vuole chiedere qualcosa, insomma vi lasciamo la domanda. Allora, parlavi adesso di informazione, come giudica la copertura da parte dei media americani della presidenza Trump? Cioè, c'è parte dei media, diciamo quelli più istituzionali, liberal, quindi New York Times, Washington Post, CNN, che stanno coprendo in modo molto aggressivo questa amministrazione. Mi pare che ci sia una netta spaccatura, no? Perché invece c'è un'altra parte dell'informazione americana che difende questa presidenza. Ecco, allora, un giudizio su che tipo di copertura stanno dando. Ricordo Washington Post, la democrazia muore nell'oscurità, no? È diventato il sottotesto sotto appunto il titolo del giornale. E io sono appena tornato dall'Inghilterra. Allora, una cosa che mi interessa e che chiedo a lui, perché fa un tipo di informazione anche particolare. Allora, in Inghilterra per settimane i giornali tabloid popolari, quelli di Murdoch, si sono abbattuti continuamente in modo molto aggressivo, inventando anche cose contro Corbyn. Quella cosa lì è servito a pochissimo. Perché? Perché ormai i giovani non leggono più i giornali, e quindi gran parte del voto giovanile è andato a Corbyn, proprio perché i giovani hanno altri modi ormai di informarsi. Ecco, allora volevo chiedere un giudizio a Emmanuel proprio su questo, quindi che tipo di copertura stanno dando, e se lui vede, diciamo, anche con lo sviluppo dei media che c'è in questo momento, delle novità importanti proprio per la possibilità e la capacità di informare. Well, it's interesting. We've learned so much in the last few months. We've learned about propaganda, we've learned about revisionism, we've learned about all these things that the rest of the world knew for a long time. And we've learned about all this through our media. We have this wonderful entity in the States called Fox News. You don't get it here, do you? No, it's... you don't want it, no. Basically, anything that Trump does is correct and right, and boy, these people are simply unbelievable. And I think for the first time, many of us are seeing an unbelievable media outlet that just basically believes in Trump more than Trump does, and is able to basically spin gold out of whatever it is that he comes up with. So that is an eye opener. That wakes people up right there. But what we've also seen is a reawakening, a rejuvenation of traditional media. I've heard the mantra that print is dead, newspapers are dead, radio is dead. I've heard that said too many times, and I think we all know radio is not dead. And I think we all know that newspapers are not dead too. But what has to happen in media has to evolve. Media has to find new ways to make sure that its message, its reporting is getting out there, because there is a very big difference between a media outlet that has reporters that know what they're talking about and a comment board on the internet where nobody knows what they're talking about. And unfortunately, there are people who want to make everybody equal and say, well, your word counts as much as anyone else's. No, it doesn't. Not if you're ignorant and you're making things up. And we've seen too much of that in the States. In fact, that's how Donald Trump got elected in the first place, because no matter what, we gave him equal time, because he was there with a microphone speaking. And, you know, there were times where we had literally an empty podium waiting for him to come to the microphone, while Bernie Sanders was already talking to people in front of a packed stadium and wasn't getting the coverage. It was simply because we wanted to see what he would say next, without realizing what the consequences of giving him all of this free media time might be. But what we've seen happen since Donald Trump took power, we've seen those traditional media outlets, things like the Washington Post or the New York Times or the Guardian, actually do reporting, because they have actual reporters who do their job, who know the research, and they have uncovered scandal after scandal. They've uncovered the lies. They've reported the facts, and that's why they're not welcome at the White House briefings. That's why Donald Trump calls them the fake news, basically why the media has become the enemy of this administration. That's a good thing. That's a good thing, because whenever you have an administration that fears the media, that's an administration that fears the truth. And when you have an administration that fears the truth, you know you have a problem. And this is a big red flashing light to the American public that there is a huge problem that we have right now that has to be dealt with. So I think we've seen a lot more trust in the media that actually is doing the reporting, not simply reprinting press releases or saying what the administration wants them to say. The media that very much like hackers questions authority and tries different things when one thing does not work and eventually gets to the hole either in the system or in the story. So in addition to realizing the power that we have as individuals, Trump is giving us the recognition of the power of the media and the importance of the media. The New York Times has seen its subscription levels skyrocketing in the first few months of this year, mostly through digital platforms. And that's a good thing that they're able to do this. I think we will see, I know at 2600 we've seen an increase both in the people writing articles and the people subscribing. And I think we will see more of that as people realize it's important to have independent media that reports on facts and challenges authority. Right. Hey, sorry, I keep on making this mistake. Okay, abbiamo in pochi mesi, grazie a questa amministrazione, negli Stati Uniti imparato una serie di parole, di concetti e anche di problemi, di grandi campi di informazione che precedentemente il mondo conosceva, ma forse noi meno. Cioè, per esempio, la propaganda, il revisionismo, insomma, tutta una serie di cose che abbiamo scoperto appunto che in altre società erano ben note. Forse conoscete quel meraviglioso mondo che è quello di Fox News. Non so se qui avete occasione di vederlo, ma penso che forse molti di voi non vogliano scoprirlo, però abbiamo altro. Diciamo, cioè, we have our own problems apart from Fox News. Yeah, so, dice a Fox News, forse qualcuno di voi lo sa, è tutto giusto quello che fa Trump. Si arriva quasi a dei risultati incredibili per cui Fox News è più realista del re, cioè crede di più a quello che fa Trump di quanto non faccia Trump stesso, cioè che poi magari disattende quello che loro sottoscrivono. Insomma, è tutto oro colato. E questo naturalmente per molte persone è stato un modo per aprire gli occhi, per svegliarsi, no? Cioè, poi anch'io ho sentito spesso le frasi, la stampa è morta, i giornali sono morti, in particolare la radio è morta, e questa è proprio un'affermazione falsa, non è morta per niente. Il punto è proprio il tipo di modo in cui il messaggio viene fatto evolvere dai media, no? Cioè il messaggio arriva o non arriva, e se il messaggio che arriva è un messaggio, qualunque modo di portare fuori messaggio, qualunque media outlet, dice lui, che appunto è una definizione che lascerei in originale perché indica proprio il modo in cui si dicono le cose, dipende da che cosa si dice, dalla competenza di chi lo dice. Cioè, per cui un conto sono, lui l'ha ripetuto più volte, quelli che non fanno altro che ripetere o riportare dei comunicati stampa, e quelli che sono capaci di fare veramente i reporter, no? Quindi questa è una delle cose che per più di ogni altra dobbiamo tenere presente nel momento in cui valutiamo l'importanza dei media e del coverage che si dà a qualcosa come l'amministrazione Trump. Per esempio, ci sono dei paradossi a cui si arriva per l'idea che la democrazia debba consentire a tutti quanti di avere lo stesso spazio e lo stesso tipo di informazione. Quante volte ci è successo durante la campagna elettorale che Donald Trump non fosse ancora arrivato nel posto dove doveva parlare, in virtù del fatto che doveva avere lo stesso coverage, lo stesso tipo di tempo degli altri candidati? Abbiamo guardato un podio vuoto in cui non era ancora arrivato a parlare, mentre da un'altra parte Bernie Sanders stava già parlando al suo pubblico ma non riceveva copertura. Ecco, per cui il problema grosso è proprio che i media hanno ovviamente delle differenze grosse nella qualità. Io, per esempio, pensando al Washington Post, al New York Times, al Guardian, che hanno dei reporter veri, che hanno svelato scandalo su scandalo, bugie, fatti, e che infatti ormai non sono più benvenuti alla Casa Bianca, e che Trump definisce autori di fake news, beh, quelli sono dei media che ovviamente mettono in discussione il sistema. E quindi in realtà il problema è proprio che se c'è un'amministrazione da qualunque parte del mondo, in questo caso negli Stati Uniti, che teme i media, li tiene fuori, vuol dire che teme la verità, e un'amministrazione che teme la verità vuol dire che c'è un problema. E questa è una grande luce rossa per l'opinione pubblica mondiale, che stranamente ha cominciato a far crescere, a ritrovare la fiducia nei media. In questo momento i media godono di una fiducia negli Stati Uniti come non ne hanno mai goduta negli ultimi anni. In qualche modo alcuni di questi media, quelli più seri, si comportano proprio come gli hacker, svelano delle cose e le rivelano al loro pubblico. E quindi questo in realtà è proprio quello che ha fatto sì che per esempio il New York Times abbia visto salire stellarmente i propri abbonamenti, non solo alla versione cartacea ma anche alla versione online, e che per esempio anche 2600 abbia visto aumentare molto le sue subscription. Quindi noi non possiamo che riconoscere che l'importanza dei buoni media è assolutamente essenziale per riuscire a riscoprire un rapporto corretto con la propria amministrazione. Ecco, allora io speravo che ci fosse tempo per una domanda, in realtà mancano 58-57 secondi alla fine. Parlava di luce rossa dell'informazione, è arrivato Luca Gattuso con la maglietta rossa e questo vuol dire che è davvero finita. Quindi ringrazio Emmanuel Goldstein e Kyle, che sono venuti dagli Stati Uniti per raccontarci la loro America. Ringrazio Marina Catucci, anche lei è venuta da New York apposta. Ecco, continuerete poi a sentirla negli spazi informativi di Radio Popolare. Ringrazio ovviamente Ira Rubini, che ha tradotto in modo fantastico. E un saluto, restate qua perché ci sarà sicuramente qualcosa. Certo, grazie, ciao. Diciamo anche che con Emmanuel non è finita, con Emmanuel e Kyle, che andranno di nuovo in onda lunedì. Domani. Esattamente. E ringraziamo Roberto Festa tantissimo. Ciao.